La gatta cambiata in donna, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. C'era una volta un uomo ed una gatta sì cara fra le care, che ne provava una passione matta a sentirla soltanto miagolare. E pregò tanto il cielo che il destino, per contentare le sue strane voglie, a forza d'incantesimo un mattino la fece donna e gliela diede in moglie. Dir non vi posso in rima i baci, le finezze e le carezze che fa questa sposina al malinconico suo marito, più pazzo ancor di prima. Essa lo bacia ed ei muore distrutto nel bel della sua gatta, che crede donna in tutto e dappertutto. Un giorno, sul più bello, ecco le pare d'udire un topolino a rosicchiare. Alzasi, guarda, ascolta, le pare e non le par, ma un'altra volta che il topo venne e sotto la sembianza di donna non conobbe ancor la gatta, questa, dall'indol tratta, ad inseguirlo prese per la stanza. Tale e tanta è la forza di natura che a un certo punto più non si ripiega, invano poi di togliersi procura la fragranza che il vaso abbia assorbita, o alla stoffa di toglier la piega. Cacciala fuori a colpa di bastone, a colpi di staffe pur la caccia, armati pur di forca e di balestra, l'indole torna, e se le chiudi in faccia la porta, tornerà dalla finestra. Fine della favola. La gatta cambiata in donna. Questa registrazione è di dominio pubblico.